tempo della... Sì, vai, ti sentiamo. Allora, la situazione qui dopo San Giovanni è sicuramente degenerata, si è divisa in mille gruppi diversi che sono tutti ognuno per la posizione. La polizia sta comunque sta cercando, sta parlando più di gente, per cui a chiunque possa ascoltarle, chiunque si trova al corteo, devi stare molto attento perché sono un sacco di poliziotti borghese, per cui fate attenzione tutti e tutti. Ma la situazione lì che vedi adesso qual è? In questo momento ci sono un po' di barricate, ma comunque la gente sta cercando di dividersi e andare via. Abbiamo notizie di scontri anche a Re di Roma, che comunque qui è vicino, e ancora parte del corteo sta arrivando sempre nella stessa tragitto previsto. Sì, infatti un pezzo di corteo che era dietro sta andando avanti e passerà adesso da Santa Maria Maggiore. Però insomma quelle che sono le notizie che arrivano dal centro di piazza San Giovanni è che c'è proprio una guerriglia in corso, o ci sbagliamo? Da San Giovanni fino ad arrivare a tutta la zona dell'Appia Nuova, fino anche alle di Roma, quindi anche chiunque se lo vede deve stare attento, soprattutto deve fare attenzione a chi è intorno, è pieno di polizia borghese. Va bene, d'accordo. Se hai altre informazioni, noi vediamo, ma c'è quello che c'è stato detto sostanzialmente anche di caroselli, di macchine della polizia in mezzo ai manifestanti a tutta velocità, tu le hai viste, puoi confermarci? Sì, c'è la notizia di un ragazzo investito da una camionetta della polizia, per cui ancora non niente di confermato, non ho nessuna conferma. Era arrivata anche a noi, ma non è confermata ancora. Sì, infatti ancora non è confermata, però ci sarebbe qualche altro manifestante colpito da un petardo, insomma un po' la situazione. Ora io mi ritrovo in un gruppo che si è dovuto staccare, che si è ritrovato isolato, per cui io mi sto staccando dal corteo, cercherò dopo di riprenderlo, ma non posso garantirvi sulla situazione. Ormai ci si è sciolti proprio in piccoli gruppi da 5-10 persone massimo. D'accordo. Io in altre zone appunto ancora stanno continuando. Va bene, d'accordo. Allora, appena hai altre informazioni ti preghiamo di farcele sapere, d'accordo? Bene, a dopo. Va bene, grazie.